però ti deciderai e non ti pentirai così. Non essere timida, non arrossire più quando ti stringo a me. Devi sorridere. Oh, se un giorno ti deciderai e non ti pentirai così, certamente impazzirò quel dì se mi dirai ancora di sì. Sei tanto piccola, non devi piangere se mi sorriderai. Felice ti farò. Oh, se un giorno ti deciderai e non ti pentirai così, certamente impazzirò quel dì se mi dirai ancor di sì. Farti sorridere, ma io ci proverò, bambina, credimi.